601. Biscotto di cioccolata. Uova numero 6, zucchero in polvere grammi 200, farina di grano grammi 150, cioccolata alla vaniglia grammi 50. Gettate la cioccolata e mettetela in una catinella con lo zucchero e i rossi d'uovo e dimenateli con un mestolo. Poi aggiungete la farina e lavorate il composto per più di mezz'ora. Per ultimo, le chiare montate mescolando ad agio. Cuocetelo come l'antecedente.